freddo cane in questa palude. I miei amici fanno scherzi idioti, sai. Loro spengono la sera e si nascondono nei fossi per vedere come me la caverei. Freddo cane, carne cruda, coccodrilli a quest'ora cenano. Io non ho con me il fucile, ma mi sento come Zador. Neanche questa volta mi fregano. Troppo silenzio, è possibile che tutti dormano. Qualche cosa urlerò.